soprattutto sul loro sito. Poi esistono anche altre varie certificazioni, però diciamo che la certificazione più importante è comunque Global Textile Denim. Fantastico, hai fatto tutto tu. Nulla, mi rimane solo da chiederti un piccolo dubbio. La certificazione di cui hai parlato, dove la trovo sul capo? È sulla in etichetta? È un'etichetta a parte? Global Organic Textile Standard, c'è cioè proprio il sito Global Organic Textile Standard. Praticamente, così come green non è per forza anche etico e non garantisce che la manodopera non venga sfruttata, perché se si trova un capo con un'etichetta che indica questa certificazione, che c'è scritto proprio GOT, Global Organic Textile Standard, è da comprare subito. Attesta che il filato è stato prodotto in modo sia sostenibile che etico. Però esiste anche la certificazione che si chiama OECOTEX, che sull'etichetta dei capi noi troviamo proprio la scritta OECO con la K TEX, che assicura l'assenza di sostanze tossiche per la pelle. Ok. Anche cosa molto importante, perché tante volte non si considera questo, quanto i tessuti possono avere un impatto sopra la pelle. Ah, Mira, mi sa che dobbiamo ripetere la parte di intro e la parte di numeri, perché non si è sentita. Mi scrivono che purtroppo l'intro non si è sentito. Quindi ripartiamo un po', facciamo questo sum up. Dicevamo che appunto il fast fashion è un tema piuttosto caldo e analizzato appunto da un punto di vista della sostenibilità. Ha un ruolo importante nel cambiare l'equilibrio delle popolazioni, della biodiversità e degli ecosistemi. Bisogna infatti ricordare che l'industria tessile è la seconda più inquinante al mondo, dopo quella petrolifera, e responsabile del 10% delle emissioni gas climalteranti. Per dare appunto un'idea, l'industria del fast fashion emette più CO2 della somma di tutti i voli internazionali e dell'industria dello shipping aggregati. Questi dati sono fonte UNEP 2018. Ogni anno vengono consumati 1.500 miliardi di litri d'acqua, e per darvi un dato più comprensibile, sono 20.000 litri quelli necessari per produrre una t-shirt e un paio di jeans, una t-shirt in cotone e un paio di jeans. Questi dati sono i dati WWF. Se ci pensiamo, 20.000 litri sono quelli che una persona media beve in oltre 27 anni. La lavorazione e la tintura dei tessuti sono responsabili di circa il 20% dell'inquinamento idrico industriale e circa il 35%, cioè 190.000 tonnellate l'anno, delle microplastiche che popolano gli oceani è attribuibile a lavaggi di capi in fibre sintetiche. I rifiuti tessili superano 92 milioni di tonnellate ogni anno, e la cosa più assurda è che i rifiuti non sono solamente composti da prodotti giunti al termine del loro ciclo di vita, ma comprendono anche l'invenduto dei marchi di abbigliamento che devono fare posto alle nuove collezioni. Tali scarti ovviamente vengono bruciati e mandati nelle discariche del terzo mondo. La produzione, lo faccio un po' veloce perché Mira si sta annoiando, la produzione tessile è passata da 5,9 a 13 kg pro capite. Dal 2000 al 2014, dati fonte McKinsey, è raddoppiata e si prevede che raggiungerà i 102 milioni di tonnellate di prodotti tessili entro il 2030. Dicevamo appunto che per fare la propria arte, probabilmente come consumatori, sapere cosa si indossa è una cosa importante e fondamentale, e Mira ci stava appunto raccontando di queste certificazioni. Le certificazioni che attribuiscono quando un capo è sostenibile sia da un punto di vista ambientale sia da un punto di vista, diciamo, sociale, per lo sfruttamento dei lavoratori. E Mira, ti chiedevo, GOTS sono tutte certificazioni Global, che io trovo ovviamente online, e immagino che online potrà trovare anche tutti i brand che sono certificati, ma se io entro in un negozio, come lo trovo un brand certificato? Bisogna avere sull'etichetta le certificazioni, se no bisogna assolutamente andare sul sito. Esistono brand importanti, marchi che comunque fanno un greenwash che pazzesco, ecco, diciamolo così, perché ti faccio un esempio: se un marchio, un certo marchio rinomato viene e mi promuove il suo nuovo reggiseno in tessuto riciclato. Io, se vado sul sito prima di acquistare questo capo, dovrei vedere queste certificazioni. Chiaro. Comunque, assolutamente, anche online, se non, però sull'etichetta dovrebbero essere. Assolutamente importante questa certificazione, anche perché le certificazioni non vengono messe sull'etichetta così. Se nel negozio, giustamente, secondo me tutto parte anche se noi andiamo a chiedere delle informazioni, giustamente la commessa non verrà a dirci queste informazioni perché probabilmente non è preparata da questo punto di vista, cosa che manca oggi. E Mira, a questo punto io partirei con la prima canzone e riprendiamo fra pochi minuti, capendo se a grandi linee i capi è possibile in qualche maniera ripararli. Ritorniamo in diretta. Mira, dicevamo, riparare i capi di abbigliamento è possibile? Ci sì, sembra una domanda stupida, come? Ma la domanda in realtà ha un senso, perché la questione è quella della, si parla dei materiali di bassa qualità e a questo punto uno si pone il dubbio se una maglietta è stata pensata per essere indossata 5 volte, vale la pena che venga riparata? Allora, io andrei più sul fatto, sì, si possono riparare, tra virgolette, nel senso che credo tantissimo nel riciclo creativo, chiamiamolo upcycling, perché secondo me è anche un trend molto importante, che ultimamente non solo un trend, ma esiste un vero mercato più sostenibile e green. Bisogna fare differenza tra termini che sentiamo più spesso, tra recycling e upcycling. Nel primo caso, recycling, il materiale viene recuperato e si tratta di un tessuto trasformato in un nuovo filato, ok? Nel secondo, che è upcycling, si passa attraverso il riuso del proprio tessuto e la creatività. Okay. Quindi in questo modo tutti i capi, ma anche pets, anche capi che possono essere ricreati in un modo molto più creativo. Da 3 capi di abbigliamento che io non indosso più, anziché comprarmene uno nuovo, posso creare un capo, un unico capo con questi 3 capi. Ma devi essere un designer e saper metterci mano. Cioè io non saprei, nel non senso devi io, essere un designer. Io se ho 3 magliette da buttare non tiro fuori neanche uno straccio, cioè non riesco. È vero, però il creativo, non chiamiamolo designer, esistono vari creativi e soprattutto anche vari designer emergenti, a cui invito tutti quanti ad essere più focussati più su brand emergenti che trattano di più questo tema della sostenibilità che su grossi marchi. Ti interrompo un secondo. Devono essere focussati. È un'espressione che mi piace tantissimo. Devono indirizzare il proprio focus, perché la tendenza oggi come oggi, quando si parla di moda, è di avere sempre il focus su grossi marchi. Non è così, perché la moda tratta come ci vestiamo tutti i giorni nella nostra vita reale, e spostare il focus dai grandi nomi e grossi marchi verso nomi emergenti, che 80% di questi nomi emergenti fanno upcycling. Se io non sono capace a ricreare un mio capo con i tessuti che ho già, posso rivolgermi a uno di loro, e nel mondo online ce ne trovano tantissimo. Quindi, nel senso, boicottiamo Armani e facciamo la rivoluzione della moda sostenendo i piccoli designer indipendenti. Fantastico. No, diciamo che anche grossi ci sono, non so se posso dare nomi, però esistono tanti. Possiamo fare nomi. Soprattutto se sono piccoli brand di giovani designer sostenibili, assolutamente sì. Esistono tanti. Tantissime case di moda, come Moncler, per dire, quest'anno con la Camera della Moda ha fatto un progetto dove è stato di supporto a più marchi ecosostenibili, soprattutto per i nomi nuovi e nomi emergenti della moda, e quindi che sono stati listati sul calendario della moda. Però ci sono tanti che cercano, soprattutto perché questi designer emergenti non riescono ad andare avanti anche per un discorso fiscale, sappiamo tutti questo problema, quindi queste grosse case di moda cercano di trainare i designer emergenti che appunto trattano sempre di più la sostenibilità. Noi siamo sicuri che quello di Moncler non sia greenwashing con tutto quello che è uscito su Moncler qualche anno fa? No, perché conosco personalmente uno dei nomi che è stato listato sul calendario della moda, e posso assicurarti che fa upcycling da quando in Italia non esisteva nemmeno questa parola. Okay. Non so se posso dare il nome di questo brand, però Sparalo. È così. Simon Cracker. Ok. Simone Botte, che è un ragazzo di Cesena, e tra le altre cose lui fa upcycling da quando in Italia nemmeno questa parola andava di moda, diciamolo così. Quindi lui, tutte le collezioni create da lui sono tutte con tessuti di nonna, della sua bisnonna, di suo papà, quindi sono tutti tessuti dove lui va a ricreare delle collezioni intere con vari tessuti, e non solo, anche tessuti second hand. Ok, infatti questa era un po'... Scusami, questa era un po' la seconda domanda, ma il mercato della second hand, visto che lo dici così bene in inglese, abiti vintage eccetera, è un trend, mi pare, da quel poco che seguo la moda, un trend in espansione, ma soprattutto la domanda vera è vero, o è una mia percezione, che quando mi hai detto che Simone Botte utilizza i vestiti e i tessuti del nonno eccetera, è vero che quei tessuti sono forse di qualità più alta rispetto a quelli filati nuovi? È vero, perché una volta non esistevano tante risorse, così come una volta un tessuto si creava, così come una volta nella moda non esistevano le sfilate, si facevano le sfilate privati nell'atelier dei designer, così come in Francia una volta Frederick Worth faceva le sfilate nel suo atelier in privato alle proprie clienti. Però un capo veniva realizzato, c'era un lavoro di mesi e mesi interi. Una volta non esisteva questa vasta possibilità di scelta di tessuti. Chiaro, quindi questo era cotone 100% o seta o lana o... Esatto, però nemmeno esisteva la tecnologia, quindi diciamo che la tecnologia è un'arma a doppio taglio, o viene utilizzata con uno scopo positivo, oppure la tecnologia può essere quell'arma che ci fa più male, perché come in tutto sì, come in tutti gli ambiti, quindi è molto Sì, e quindi secondo me il mercato del second hand è un boom ed è sempre, lo è sempre stato. Per dire, esistono paesi, soprattutto nell'Europa dell'Est, esiste questa tendenza dei negozi second hand, dove è un vero business, proprio business. Lì esiste questa mentalità di indossare capi second hand, solo che lì non si va con la mentalità di comprare un capo second hand perché costa meno e quindi io posso contribuire a migliorare l'impatto ambientale, ma lì si va anche alla ricerca dei marchi importanti, no? Quando si va in un mercato second hand. Però soprattutto oggi come oggi è molto importante restare, cioè comprare dai mercati second hand, perché no, anziché comprare dai negozi che fanno fast fashion, anziché comprare un capo a 2 euro che magari lo posso indossare due volte, poi non lo posso più indossare perché il tessuto è già distrutto, se io compro un capo second hand può durare anche 50-60 anni. Ma prima parlavamo di materiali, qual è il problema di avere materiali sintetici mischiati con col cotone eccetera? E mi riferisco a tutta alla, non al problema, nel senso, abbiamo parlato delle microplastiche, dei lavaggi eccetera eccetera, ma per quanto riguarda il riciclo e il lo smaltimento. È molto importante prima di tutto anche capire l'impatto che può avere sulla nostra pelle, okay, soprattutto i materiali sintetici. E esistono, ti faccio un nome per dire, Road Leading, questa azienda di Vicenza fondata da Matteo Ward, che loro hanno creato questa t-shirt che è un tessuto ottenuto con una tecnica non utilizzando il petrolio come accade normalmente, ma la cera ad api. Ed è anche realizzato anche in collaborazione con un'azienda che si occupa dell'impermeabilizzazione, così come fanno sia le t-shirt con la fibra di menta, ma anche le felpe impermeabili con la cera d'api. Sì. Sempre loro hanno realizzato il primo jeans biodegradabile da cui nasce la menta, che è stato presentato a giugno a Milano. No, giugno 2021, nell'ultima... Sì. Sì, in collaborazione con Candiani Denim, che ha presentato il primo jeans elasticizzato al 100% biodegradabile nel nuovo hub della sostenibilità per Milano. È stato praticamente uno spazio dove hanno informato il pubblico sui costi ambientali anche sociali della moda, però soprattutto hanno fatto vedere l'innovazione tecnologica del tessuto Coreva, che è un denim che, giunto a fine vita, è in grado di fertilizzare il terriccio nel quale crescono le piante di menta. Che io prendo il jeans, lo spoglio, lo lancio in giardino e cresce la menta. Esatto. Splendido. In un... Candiani Denim, sì. Poi il tessuto si chiama Coreva. Coreva Candiani Denim. Lo troviamo online, sì. Immagino. Sì. Fantastic. C'ho una domanda dal pubblico. Mi chiedono, Uniqlo, se ho imparato qualcosa da quello che mi hai detto, guardo l'etichetta, è made in Vietnam, quindi ci metto sopra una croce. Allora, possiamo rifare l'unico? Da casa ci chiedono, chiedi, cioè se parlate, possiamo avere informazioni su quanto riguarda Uniqlo. Evidentemente c'è una buona brand perception per quanto riguarda il marchio, ma se ho imparato qualcosa, quello che dici, Uniqlo, guardo l'etichetta, è made in Vietnam e quindi è male. Non è come, bisogna capire... Al di là, non è che bisogna capire solo, il capo è sostenibile non solo in base a come sta, può essere sostenibile nel caso in cui è stato creato rispettando le norme delle risorse, cioè dei diritti umani delle persone che hanno lavorato quel capo. Quindi il fatto di vedere dove il capo è stato realizzato, se è stato realizzato in Vietnam, chiediamoci come è stato realizzato quel capo, così come se io compro un H&M e so come se H&M mi vende praticamente un jeans ecosostenibile, poi vedo che è un made in Pakistan e io ci penso, hanno miliardi di negozi, miliardi no, però migliaia di negozi se noi andiamo a fare un conto, ci sono migliaia di paia di jeans che non è assolutamente sostenibile una produzione in massa. Quindi Uniqlo fa una produzione di massa. E quindi la risposta è Uniqlo come Teniamo H&M, conto come... che quel da, per farlo volare anche dal Vietnam in Italia, anche quello c'è da considerare. Chiaro, se chiaro. Noi viviamo sul mercato italiano dove abbiamo tante risorse, dove noi possiamo acquistare il made in Italy dai nomi emergenti, perché non farlo? Dobbiamo assolutamente supportare il nostro mercato, il mercato in cui viviamo prima di tutto. E allora abbiamo alcuni ascoltatori vicino. Ho un giubbotto di moto, da moto in lino cerato con cera d'api e da 30 anni sono entusiasta. E poi ci chiedono se fuori con, cioè, stiamo uscendo un po', vedi tu se ne sai e vuoi parlarne, tessuti in canapa? Sì, dipende. Dipende se è canapa 100% e dove è stato realizzato il tessuto. Chiaro. Cioè, quindi dobbiamo fare sempre risalire la catena, diciamo, la supply chain e capire un po' meglio. Sì, perché la canapa in realtà è uno dei tessuti più ecologici al mondo. La canapa è uno dei tessuti più ecologici, però anche lì bisogna capire se non è combinata con un altro tipo di tessuto, però è una fibra naturale estratta anche dalla pianta e dalla specie cannabis sativa. Quindi è una pianta che è ecologica, è 100% sostenibile. E se non mi sbaglio, mi pare di aver letto, non mi ricordo la fonte, che per ogni chilo di prodotto in canapa c'è una riduzione importante dell'acqua necessaria. Sì. Non ricordo bene i dati, se volete poi vado a ricercarli. Mira, io partirei con, non mi ricordo, seconda canzone. Vuoi introdurla tu mentre io smanetto un po' col mixer? Certo, la seconda canzone è Mind Enterprises con Shake. Fantastic. Shake your body. Mira, ritorniamo in diretta. Allora, io, come immagino tu possa percepire dall'immagine che vedi di me riflessa nel tuo schermo, di fashion ne capisco veramente poco, niente. Ma il mio dubbio è: com'è possibile inventare 52 collezioni se volessimo prendere quelle di probabilmente 10, né? Ma ci sono brand che ne fanno di più, ancora oltre una collezione a settimana. Quindi come si fa a inventare 52 collezioni l'anno senza mai ripetersi? Probabilmente va bene il primo anno, ne ho create 52, ma il secondo anno come faccio a inventare 52 paia di jeans differenti? Ma soprattutto, come può esserci innovazione in un'industria così veloce? Innovazione esiste, come? E soprattutto dipende da noi, quello che dicevo prima, dipende da noi dove spostiamo il focus, perché se noi spostiamo il focus sulle aziende che fanno, ribadisco, non è che fanno solo due collezioni all'anno, esistono aziende che fanno collezioni uomo, donna, così come anche collezioni resort, che è sempre uomo e donna insieme. Quindi sicuramente la stessa Anna Wintour, la Global Director di Vogue in tutto il mondo, ha ribadito meno sfilate, più sostenibilità, quindi anche da parte sua c'è questo invito e speriamo che verrà rispettato, soprattutto perché tante persone non comprano, le persone non sono come noi a capire sono più di 52 collezioni. Oh no, si è bloccata Mira. Proviamo, è caduta. Adesso si sta riconnettendo, io vi alzo un attimo lo sfondo e provo a richiamare Mira. Siamo riusciti, ci boicottano i grandi marchi, ci stanno boicottando perché parliamo male di loro. È caduto no. Tutto e non so cosa parliamo sia successo. Anche di quelli che aiutano. Bene, siamo tornati, rieccoci. Dicevamo. E poi volevo anche ribadire a proposito delle settimane della moda che poco dopo l'inizio della pandemia si è parlato molto di come l'industria della moda dovesse diventare più sostenibile, E credo che anche ciò che è successo è anche un punto interrogativo per tutti noi. Inizialmente ci fu la forum letter che a maggio 2022, guidata da Dries Van Noten, che è un marchio francese, chiedeva di dare inizio agli sconti solo a fine stagione e di apportare modifiche al calendario della moda. Poi è stato anche richiesto dalla Camera della Moda americana e anche quella inglese che raccomandava a tutti i designer di focalizzarsi su non più di due collezioni all'anno, e poi l'hanno ridotto di una collezione all'anno, cioè di non presentare più separatamente primavera, estate uomo e autunno inverno uomo, ma autunno, inverno e primavera, estate una collezione all'anno, ma insieme uomo e donna, perché il brand può avere primavera, estate uomo, autunno, inverno uomo, primavera, estate donna, primavera, autunno, inverno donna. Quindi quattro collezioni, anziché presentare quattro, presentarne una insieme con meno capi rispetto a... Però non esistono, purtroppo ancora non esistono delle leggi, perché tutto dipende anche da questo, ancora non esistono delle istituzioni che mettono dei limiti a questi marchi, e credo che è molto importante. Oggi ci aggrappiamo al fatto che ciascuno deve essere consapevole del fatto che dovrebbe contribuire il più possibile alla moda ecosostenibile, però non è così, perché sono ancora tanti marchi che presentano quattro collezioni all'anno, oppure però le ultime Fashion Week non hanno visto la fine comunque della maggior parte di questi discorsi, perché si parlava inizialmente, ma in realtà ciò che stiamo vedendo in questo momento è che comunque si presentano ancora delle collezioni, quattro collezioni da parte di un brand, ciò che è sbagliato. Però e posso vedere positivo il fatto che gli editor, i giornalisti e i buyer non partecipano più di persona alle sfilate. Là dove era una marea di persone che volavano, soprattutto dall'Asia, soprattutto il mercato dei buyer che volavano dall'Asia alle settimane della moda per fare anche gli acquisti, adesso non è più così. Si sta parlando anche di un nuovo mondo digitale, di come questo mondo digitale può contribuire all'ecosostenibilità, e anche lì però non è nulla di certo ancora, quindi dobbiamo ancora aspettare e capire com'è. Io spero che entro il 2030, perché entro il 2030 è stato richiesto dalla parte della comunità europea a Bruxelles a tutti i paesi di rispettare delle regole per quanto riguarda la sostenibilità, e spero che all'interno di queste regole rientrano anche il fatto di come vengono svolte le settimane della moda. Io credo che dobbiamo ridurre le collezioni, anziché presentare quattro collezioni all'anno, presentarne una e con meno capi possibili. Ed è possibile anche ricreare con tutti i capi che non si vendono, perché comunque un brand prima di tutto quando crea una sfilata sono i campionari, non sono i tessuti in sé. Tutto ciò che non si vende dovrebbe essere riciclato, e tutti i tessuti e i capi non venduti rifare e ricreare le prossime collezioni con tutto ciò che non è stato venduto. Una rivoluzione, ribadisco. Sì, volevo chiederti, probabilmente il Covid ha anche un po' influenzato tutto questo spostamento dei vari buyers, eccetera, ma lo spostamento digitale, sì, non pensiamo che, non so, non ho fatto i conti, però sicuramente anche il digitale ha dei suoi costi. Cioè, diciamo che durante la pandemia l'impatto ambientale, praticamente oltre il 70% delle emissioni, è causato dalle attività di produzione di questi capi, quindi con la pandemia è stato un è stato molto. Sì. Ma Mira, credi che sia possibile educare a questo nuovo concetto di moda che stai dicendo? Cioè, nel senso, un nuovo concetto, una vera rivoluzione, perché se oggi pensiamo alla moda, mi sei caduta, oddio, se oggi pensiamo alla moda, la moda è una cosa che io mi metto addosso per, tra virgolette, darmi un tono, per fare parlare l'abito che fa il monaco. È possibile, secondo te, educare a un concetto differente di moda? O... Sì, ed esistono anche persone che lo stanno già facendo. Esiste, è nata da poco, a novembre, se non mi sbaglio, School of Rad, che tra l'altro, tra le altre cose, il titolare Matteo Ward, che è qui di Vicenza, e lui già insegna a dei seminari all'interno di varie università in Italia, dove appunto è molto importante il fatto che lui ha fondato School of Road, e loro si trova sul loro sito roadliving.com, dove questa accademia, che parlerà, è una piattaforma inclusiva, indipendente, ma anche dedicata alla cultura della sostenibilità a 360 gradi. Dovremmo assumere degli influencer per influenzare le persone a non comprare perché più, perché loro trattano il tema, cioè, sì, e soprattutto si dovrebbe, se fosse per me, come la nutrizione, ribadisco sempre, noi dobbiamo parte tutto dalle scuole, ciò che insegniamo, come insegniamo, ma non noi, e soprattutto le azioni che facciamo, perché tante persone parlano della sostenibilità, però nelle azioni di tutti i giorni non si applicano, cosa che è sbagliata. Chiaro, quindi tante coerenza. Persone la coerenza, pensiero e la coerenza, pertanto tutto parte da noi, da come noi ci svegliamo domani mattina e come scegliamo di vestirci, ma anche cosa indossare, cosa fare in tal modo, tutto dipende da noi, non dipende da nessun'altra, cioè la prima persona che può aiutare a questo cambiamento siamo noi, e ciò che facciamo noi separatamente con il nostro piccolo. Però più sono persone che intraprendono delle azioni che portano verso la sostenibilità, meglio è. Soprattutto magari per non entrare in conflitto con altri opinion leader che abbiamo intervistato in questa RAO, io mi riferisco ad esempio all'intervento di Alessandro Saebi, che dice sì, è vero, consideriamo che l'1% più ricco del mondo emette il 30, per non mi ricordo il numero, delle emissioni totali, quindi è più una presa di coscienza per diciamo probabilmente non tanto fare la differenza, ma sicuramente indirizzare le grosse scelte di chi ha il potere di farle, queste scelte. Esatto. E, Mira, il concetto del capo preferito è una cosa di quando io sono bambino, non esiste più? Cioè, io mi ricordo che da bambino avevo la mia tuta preferita, quando la mettevo mi sentivo un fenomeno e volevo sempre averla. Ma a questo punto non c'è più questo concetto. Io ho ancora il mio capo preferito, che è un paio di jeans praticamente che hanno 26 anni. Ho ancora quei jeans. Esiste per noi, nel senso per noi, la nostra generazione, dovrei andare nelle scuole a parlare con i ragazzi che hanno 12, 13, 14 anni per capire se loro davvero non hanno, anche perché loro sono, ecco il punto principale, che acquistano fast fashion, soprattutto perché costa poco, no? E quindi si permettono. Però vorrei andare, non ti posso rispondere, per quanto riguarda la nostra generazione sicuramente esiste ancora, per quanto riguarda la generazione Z non lo so, dovrei andare a indagare. Andremo a indagare. A capire direttamente, sì. Però secondo me esiste ancora. Dentro di noi, anche per quelli che non lo vogliono far sapere, che non lo vogliono ammettere, anche se è l'abito della nonna, quindi può essere anche una giacca della nonna, che sicuramente esiste ancora. Ah, io farei introdurre a te l'ultima, la penultima in realtà, canzone, così io mi diletto con il mixer, che prima è stata bravissima. Vai quando vuoi. Andiamo con la disco, ok? We'll be right back. Rieccoci in studio, rieccoci in diretta. Mira, stavamo parlando di appunto H&M, i ragazzi giovani che vogliono vestire alla moda e vogliono buttarsi addosso una maglietta diversa al giorno. Questa cosa se lo possono permettere perché il fast fashion propone capi di bassissimo prezzo, ma il concetto di qualità nel fast fashion, nella moda ai nostri giorni, cosa è un concetto che si è perso o è un concetto che va solo nel super lusso? Come è evoluto un concetto di qualità all'interno del mondo della moda? Diciamo che non si è perso il concetto della qualità, tutto dipende anche da noi e come facciamo la ricerca. Soprattutto partiamo anche dal presupposto che prima di acquistare un capo, prima di guardare il marchio, è anche leggere l'etichetta sull'informarsi sui tessuti di cui è stato creato questo capo e soprattutto dove è stato creato questo capo, perché tante persone. Però la qualità soprattutto dipende anche, mi sono dimenticata di dire questa cosa, quando noi guardiamo l'etichetta è anche importante capire come si lava quel capo, mm-hmm. e il lavaggio di quel capo, perché la qualità di un capo dipende da questi due fattori, l'etichetta e i tessuti di cui è realizzato e soprattutto il lavaggio di questo capo. Diciamo che non si è persa la qualità, però... E nel momento in cui noi acquistiamo un capo, il 100% canapa o il 100% fibra di menta, perché esiste a tutt'oggi, ci sono varie t-shirt, così come il cactus, così come tanti altri tessuti, dobbiamo soprattutto spostare il nostro focus verso i brand che creano questa tipologia di capi, che costano anche molto meno rispetto ai grossi marchi, che purtroppo anche alle aziende che producono fast fashion, perché purtroppo è così, solo che la mentalità del consumatore è di farsi vedere troppo e di avere un nome addosso, quindi è proprio una questione mentale. E io comunque, per quanto riguarda anche la qualità del tessuto, tante volte penso a quante volte ho indossato un capo quando io guardo il mio armadio. E quindi tante volte, se noi prendiamo la matita, un foglio, e prendiamo un capo uno ad uno e scriviamo su quel foglio quante volte abbiamo indossato quel capo, resteremo sbalorditi, perché tante volte ci rendiamo conto che abbiamo dei capi che non abbiamo mai indossato o non abbiamo mai messo, e quindi dobbiamo chiederci perché abbiamo acquistato quel capo. Non era una necessità, e quindi tante volte qua invito, nel momento in cui io ho questa guida che la chiamo 7R: riduci, riusa, reinventa, ricicla, ripara, riventi o rent, noleggia. Noleggia, fantastico. Sono un io, io ho un'amica che praticamente qua a Vicenza si fa uno scambio, ci troviamo ogni tanto, purtroppo adesso con la pandemia non si è più potuto fare, però i capi che noi non indossiamo più, facciamo uno scambio, facciamo una mini fiera tra di noi e invitiamo delle persone dove noi non acquistiamo i capi, però praticamente ovviamente con tutte le norme dell'igiene che si possa fare, però anziché andare ad acquistare sempre i nuovi capi, noi andiamo a fare questo scambio, ecco, tra di noi facciamo una mini fiera, siamo 5-6 amiche, ciascuna si mette il suo sender e quindi facciamo sempre uno scambio di abbigliamento tra di noi. Adesso arriveranno migliaia di ascoltatori che vorranno partecipare e la vostra mini fiera diventerà una expo internazionale. Una cosa che la facciamo tra di noi, questo perché ci rendiamo conto che tante volte abbiamo dei capi che non abbiamo mai indossato. Però ecco, inviterei anche appunto i ragazzini di cui parlavamo prima a prendere carta e penna e capire quante volte aprire quell'armadio e scrivere su quel foglio quante volte il capo numero uno, quante volte l'hai indossato in vita mia, capo numero due. Ovviamente non parlo di piccole necessità come i calzini e altre cose, però davvero quello che dicevo prima, tanti parlano della sostenibilità ma in pochi agiscono, perché tante volte dipende tutto dalle azioni che noi facciamo ogni giorno. Una conclusione facile, ovviamente, quando parla di sostenibilità nel mondo della moda è comprare meno, ma questo è un po' il concetto di ridurre in tutto, nel senso tutto quello, esatto, che consumiamo, eccetera. Io volevo dare questo dato, che sono 460 miliardi, quindi billions di dollari all'anno i soldi che vengono buttati in capi ogni anno. Quindi io vado a comprare una mia maglietta nella catena di fast fashion, la metto 4-5 volte in media in un anno, dopodiché la butto. La cosa tragica e drammatica è che queste magliette, questi capi sono di talmente pessima qualità che se anche io vado a buttarla nel famosissimo bidone giallo sotto in strada, questa maglietta arriva probabilmente in qualche paese dell'Africa o del Sud America, ma purtroppo non viene più indossata perché non può, perché durante il viaggio si è consumata, si è rovinata, e quindi rimane un rifiuto non riciclato che vanno a inquinare anche i paesi emergenti. Vi invito a googlare, se possiamo dire così, il deserto di Atacama in Cile, che è un deserto vero di sabbia, ma che si sta praticamente desertificando, nel senso che è pieno di rifiuti di oltre 40.000 tonnellate di vestiti. Guardate le immagini, sono terrificanti. Mira, invece mi piace tantissimo il tuo esercizio di portare su un piccolo foglietto, di insegnarmi tutte le volte che metto un capo, probabilmente mi accorgerei che avrei bisogno di molti più vestiti di quelli che effettivamente ho, e farei qualche lava in più, ma sai darci qualche buona notizia? Buona notizia è che esistono tante realtà che stanno lavorando per quanto riguarda un futuro più sostenibile, e soprattutto un'altra buona notizia è il fatto che al di là del fast fashion è che comunque si sta parlando, e soprattutto che esistono delle realtà che cercano di inserire il più possibile l'educazione, perché quello che la novità è che esistono scuole, così come dicevo appunto in Italia penso che sia la prima per il momento School of Rad che insegna la sostenibilità a 360 gradi, e questa è una buona notizia. Là dove 5-6 anni fa non si poteva parlare, ribadisco, sia sostenibilità e anche climate change, ma anche la parte nutrizione, io la inserirei proprio nelle scuole da subito, non dico dagli elementari, però dalle medie. Secondo me bisogna educare in modo più costruttivo possibile le nuove generazioni. Sei una rivoluzionaria. La novità è che se ne parla, e soprattutto tutto parte dall'educazione. Dall'educazione e giustamente dalle azioni, perché non basta educare, sai, bisogna anche monitorizzare poi queste azioni. Tante volte noi sì, possiamo insegnare o possiamo, però tante volte non si va a monitorizzare le azioni che si devono intraprendere tutti i giorni e soprattutto con costanza. Sì, monitorare. Però perché la cosa buona è educazione, quindi questo per me è il punto più importante attualmente. Intendessi monitorare, perché magari si confondeva con monetizzare, che non è monitorare. Mira, come vedi il futuro della moda più in generale? Questa è una domanda di, diciamo, che farebbe digitale. No, è una domanda che ti farebbe Paco, il co-conduttore, è una domanda che vuole fare a tutti i nostri ospiti, e te la faccio io al posto suo. Sì. Il futuro lo vedo, dipende da noi, insomma, non posso prevedere il futuro, però posso sperare in un futuro positivo, soprattutto usando la tecnologia e quello che dicevo prima, ma soprattutto per quanto riguarda la parte moda. Se fosse per me eliminerei tutte le sfilate, ma non perché non tante persone dicono che okay, e poi le squadre creative cosa fanno? No, esistono le squadre creative, ma non c'è bisogno di fare sfilate di moda per presentare una collezione. Quindi il futuro deve essere anche il fatto di eliminare le sfilate di moda. Comunque il digitale va fortissimo oggi come oggi, e quindi le squadre creative possono lavorare per far vedere una collezione anche in digitale. Tante volte quando non c'è bisogno di andare a una sfilata di moda per poi capire come è creato quel capo. Ovviamente è uno strumento di marketing, però secondo me il digitale aiuta tantissimo. E vedo un futuro positivo da un punto di vista, ecco, parlando della sostenibilità, perché appunto esistono già delle scuole che trattano questo tema a 360 gradi, e anche scuole certificate, perché comunque secondo me, se tutto dipende da noi, e soprattutto il futuro non dipende solo da queste situazioni, ma quello che dicevo dipende da noi, dalle azioni che noi facciamo tutti i giorni. Però non posso prevedere un futuro super wow, e nemmeno parlare, perché non possiamo sapere quello che succede domani, ma il futuro dipende dall'azione che faremo noi domani mattina, sai. Quindi da come vivremo, se noi scegliamo noi che tipo di capo acquistare, quale tipo di capo acquistare, o indossare un capo che abbiamo in armadio, nell'armadio da 30 anni. Fare questa quindi cosa rivoluzionaria di mettere una maglia per due volte. No, però penso che comunque è molto importante, prima di tutto non dico di eliminare tutti i capi che non abbiamo mai indossato, però comunque il futuro dipende da noi, e per quanto avremo delle persone, delle istituzioni, e per quanto il mondo online ci informerà su come dovremo vivere una vita più sostenibile, tutto dipende da ciò che faremo noi partendo da questo momento e svegliarci domani mattina su come vivere la propria vita. Usando la testa senza farsi influenzare troppo. Bene, Mira, ti ringrazio. Sono le 9:30, abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, ma prima di concludere, in questa giornata della memoria, vogliamo esprimere la nostra solidarietà come tutti, come Zam, come Mira, come società, sì, a quel ragazzino di Campiglia Marittima insultato da due coetanee perché è ebreo. Vogliamo esprimere la nostra solidarietà, scusate, a Omar Buzzidi e Bamba Keita, insultati da Angelo Taipi, ed è giusto che si sappia, un giocatore del Real Basca. Domenica 28 novembre del 2021, sul campo di via Vasco da Gama in periferia di Bologna, giocatori insultati perché di colore. Ecco, queste cose nel 2022 secondo noi non dovrebbero più succedere. Mira, speriamo di vedere sempre più persone di colore che saranno sempre più cioè avere un supporto nel campo anche della moda, diciamocelo. Oggi come oggi nel mondo fashion, soprattutto in Italia, ancora non abbiamo, non sono valorizzate ancora come dovrebbero essere. Ti ringrazio anche di questa puntualizzazione. Vuoi lanciare, visto che ormai sei un'esperta, anche l'ultima canzone e noi ci salutiamo. Andiamo con Bob Dylan, Ballad of Hollis Brown. Ciao a tutti, buona serata e grazie di averci ascoltato. Grazie a voi. Hollis Brown, he lived on the outside of town, with his wife and five children and his cabin broken down. He looked for work and money and you walked a ragged mile. You looked for work and money and you walked a ragged mile. Your children are so hungry that they don't know how to smile. Your baby's eyes look crazy, they're tugging at your sleeve. Your baby's eyes look crazy, they're tugging at your sleeve. You walk the floor and wonder why with every breath you breathe. The rats had got your flower, bad blood had got your mare. The rats had got your flower, bad blood had got your mare. If there's anyone that knows, is there anyone that cares? He prayed to the Lord above, oh, please send you a friend. He prayed to the Lord above, oh, please send you a friend. Your empty pockets tell you that you ain't got no friend. Your babies are crying louder now, it's a pounding on your brain. Your babies are crying louder now, it's a pounding on your brain. Your wife's screams are stabbing you like the dirty driving rain. Your grass is turning black, there's no water in your well. Your grass is turning black, there's no water in your well. You spent your last long dollar on seven shotgun shells. Way out in the wilderness, a cold coyote calls. Way out in the wilderness, a cold coyote calls. Your eyes fix on the shotgun that's hanging on the wall. Your brain is a-bleeding and your legs can't seem to stand. Your brain is a-bleeding and your legs can't seem to stand. Your eyes fix on the shotgun that you're holding in your hand. There's seven breezes blowing all around the cabin door. There's seven breezes blowing all around the cabin door. Seven shots ring out like the ocean's pounding roar. There's seven people dead on a South Dakota farm. There's seven people dead on a South Dakota farm.